La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 49 secondi in diretta qui dagli studi di Milano. Vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta in podcast qui della versione di Oscar Giannino. E sì, parleremo ancora del risultato francese, quindi 800 24 00 24, se volete chiamarci per darci la vostra impressione su Macron, su Le Pen. È ancora tutto aperto, Le Pen può vincere. Cosa pensate di questo risultato? E in ogni caso è la fine, per quello che riguarda i candidati che vanno al secondo turno, del sistema politico della Seconda Repubblica. I socialisti, l'UMP, i loro candidati non vanno. Per i socialisti è un dramma del tutto paragonabile come proporzioni agli esiti disastrosi in questi anni del PASOK, Partito Socialista Greco, e ancora peggiori di quello dei socialisti in Spagna. Vedremo come va il Partito Laburista guidato da Corbyn in Gran Bretagna all'inizio di giugno, alle elezioni anticipate, diciamo così, chiamate dal Premier May. Una cosa è sicura: i due candidati sono due molto diversi tra loro, che vanno quelli del secondo turno. Cioè Macron, che ha battuto ed è primo la Le Pen per un 2,1% di voti, e il presidente del Front National, Marine Le Pen, sono due candidati che entrambi esprimono una scelta antisistema, diversa tra loro, molto diversa. La Le Pen è alla testa di un partito antisistema che ha cambiato diciamo il suo DNA rispetto alla fondazione, alla lunga conduzione del padre, ma l'avete sentita ieri sera, chiede un voto di tutti i patrioti per salvare la Francia, perché dice l'Unione Europea e Bruxelles sono oramai, insieme alla globalizzazione che lascia libero corso alle frontiere ai terroristi, ha detto testualmente così, le due minacce che rischiano di fare scomparire la Francia, nel cui nome chiedo il voto a tutti, ha detto Marine Le Pen. E allo stesso modo l'appello al voto a tutti è venuto da Emmanuel Macron, ma con un tono che ha evitato accuratamente ogni riferimento economico, se posso dire, che ha evitato accuratamente praticamente ogni crinale di divisione tra le forze politiche francesi rispetto ai temi animati dai candidati che non hanno superato la barriera del primo turno. Ha richiamato 5 volte l'Europa, questo sì, e aveva la bandiera europea dietro, ma anche lui in definitiva è un'alternativa moderata, però offerta a un elettorato che dice i due maggiori partiti, i vecchi partiti, i due pilastri della Quinta Repubblica, non li vogliamo, non abbiamo più nessuna fiducia nei loro leader e in quello che hanno fatto. Allora, in questa sintesi, a cui brindati stamattina hanno brindato i mercati perché il rischio europeo appare inevitabilmente ridotto a una potenzialità bassissima, perché tutti credono che sia al secondo turno scontato che vinca Macron, secondo me resta del tutto aperta la faccenda, ma vedremo. In tutto questo resta alcune considerazioni aperte, perché se c'è un'alternativa moderata come in Francia a Macron, e Macron è questo, al voto antisistema, intanto al primo turno, sia pur di poco, gli elettori preferiscono l'alternativa anti-establishment moderata a quella estrema. Vedremo al secondo turno, ma certo nei paesi in cui l'alternativa dichiaratamente anti-establishment moderata non c'è, beh, e sto parlando dell'Italia, lì le forze anti-establishment estreme possono prevalere come. Quindi non è che la risposta data al primo turno agli elettori francesi, come mi sembra invece molti commentatori italiani tendano a dire, è una specie di elixir che garantisce che in Italia non vincano gli anti-europeisti e così via. A me pare che l'offerta politica francese con Macron abbia una differenza fondamentale rispetto a quella italiana, però questa è una prima osservazione. La seconda osservazione naturalmente dipenderà, e in questo ci devono assistere i due ospiti che ho chiamato oggi, una valutazione di come storicamente questa cesura di continuità molto forte possa però essere interpretata da chi conosce bene la Francia come flussi in arrivo al secondo turno necessari a Macron per vincere, in presenza di una partecipazione al voto che poi sarà determinante, perché si vince ma sui voti espressi andando a votare, e su cui nessuno è in grado a oggi di fare previsioni. La partecipazione al primo turno è stata altissima, l'80%, in massa sono andati a votare i francesi. Il secondo turno sarà una domenica che cade in un ponte, alcuni dicono, però naturalmente la voglia di far vacanza sarà più elevata tra gli elettori di Macron, che sono la Francia integrata, quella che ha l'ottimismo del futuro, quella che crede nella globalizzazione, nel mercato, quella che sta nei grandi centri urbani, perché l'avete capito che il criterio di distribuzione dei voti tra i due candidati è radicalmente diverso rispetto a quello di chi la globalizzazione la vive come una minaccia, di chi ha perso reddito, la parte nord orientale della Francia industriale, laddove cioè Le Pen è stata in testa insieme al sud. Allora, tanti interrogativi. Iniziamo con il primo ospite, Marco Gervasoni. Abbiamo fatto ricorso a lui due settimane fa, perché autore di un libro, La Francia in Nero, storia dell'estrema destra, dalla rivoluzione a Marine Le Pen, che ancora una volta vi suggerirei di leggere, perché la storia francese noi tendiamo a dimenticarla, e tendiamo a dimenticare quante volte nel post-rivoluzione francese destra e sinistra, anche estreme, si sono intrecciate a volte nel determinare sviluppi fondamentali della storia francese. E lo ringrazio di essere qui di nuovo oggi pomeriggio. Insegna storia contemporanea all'Università del Molise, storia comparata dei sistemi politici alla LUIS di Roma. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio, grazie. Stupito dai risultati? No, perché in quel caso in Francia i sondaggi ci hanno preso al millimetro, direi. Sì, sì, sì, i sondaggi, poi in realtà poveri sondaggisti, in realtà nella maggior parte dei casi i sondaggi riescono a centrare l'obiettivo, poi quindi comunque al di là, no, non è un risultato stupefacente. Diciamo l'unica novità, almeno che però era già visibile nelle ultime settimane, è il secondo posto alla Le Pen, che invece veniva data prima già da più di un anno. Ma insomma, è quindi giustificato secondo lei chi considera questo 2% di distacco a favore di Macron come se fosse una sconfitta plateale della Le Pen, che pure è il suo massimo storico? Beh, ha guadagnato 1.300.000 voti rispetto al 2012, quindi è vero che ne ha persi un pochino rispetto alle ultime europee, però sono due tipi di elezioni diverse, come insieme mettere insieme... Cioè, alle europee si vota a mani libere, perché insomma nessuno che governi, qui stiamo parlando dell'Eliseo. Qui stiamo parlando dell'elezione chiave nel sistema francese, cioè quello in cui i cittadini riflettono di più. Quindi no, Le Monde oggi parla di inizio di declino di Marine Le Pen, ma insomma mi sembra un atteggiamento del genere comunque è più salutare rispetto all'atteggiamento di quelli che vanno in piazza a spaccare le vetrine contro il Front National. Cioè, no, in realtà, al di là delle battute, la dédiabolisation può far bene non solo a Marine Le Pen, oltre alla democrazia, ma anche a Macron. Infatti Macron intelligentemente che cosa ha fatto? Ha detto che accetterà tutti i dibattiti, soprattutto l'ultimo dibattito, quello due giorni prima del voto, mentre ricordiamoci che Chirac nel 2002 si era rifiutato. Devo dire che è una mossa molto intelligente. Devo dire che io sono curioso, perché nei dibattiti, quelli con tutti i candidati di una noia mortale, la Le Pen non è andata bene, ma Macron è stato un disastro. Macron non ha il carisma, diciamolo pure. Nel senso che è privo di quel carisma anche oratorio che è fondamentale, che era fondamentale nella Quinta Repubblica. Però Hollande pure non lo aveva, quindi forse i tempi sono cambiati. Certo, in un dibattito bisogna vedere come sulla carta potrebbe vincerlo Marine Le Pen. Però c'è anche da dire che questo dibattito a volte è stato fondamentale, per esempio nel 74, quando Mitterrand, Giscard d'Estaing vinse per pochi punti, secondo alcuni la famosa battuta «Monsieur Mitterrand, voi non avete il monopolio del cuore», sarebbe stata. Però in questo caso c'erano veramente pochi punti di distacco. In questo caso, con i sondaggi che danno un distacco così rilevante, è difficile anche se non impossibile, perché nella storia tutto è possibile, ma insomma è difficile immaginare una vittoria di Marine. Però Le io Pen. Non capisco una cosa, cioè al di là del fatto che bisogna vedere quanta gente va a votare, ma il distacco a favore di Macron nei sondaggi del secondo turno, qui si parla addirittura di 68 a 32, ipotizzerebbero una specie di confluenza di massa di chi ha votato Fillon il 20% e praticamente quasi anche di chi anche ha votato Mélenchon il 20%. Allora io, boh, può essere che non conosca abbastanza la Francia e mi illuda, ma proprio non riesco a concepirla una cosa simile. Allora, l'elettorato di Fillon, una parte dell'elettorato di Fillon voterà la Le Pen. Appunto. Un'altra sicuramente, un'altra parte si asterrà e solo una minima parte secondo me voterà Macron. Lo stesso può dirsi per Mélenchon, naturalmente con una piccola, una quota minore di, almeno questo non sono mie divinazioni, sono i sondaggi che già girano oggi. Naturalmente questo campionamento è fatto su un afflusso previsto che in genere è sempre più basso nel secondo turno. Certo, però appunto di fronte a una variazione delle cifre dell'astensione, in realtà questa forbice è destinata secondo me a ridursi. Bisogna vedere quanto si riduce. Se si riduce di molto, è una grande vittoria per Marine Le Pen, pur nella sconfitta. Se si riduce di molto il divario tra i due, se invece resta molto elevato, diciamo sopra il 10%, allora si tratterebbe di una sconfitta per Marine Le Pen. Non credo che venga confermato un divario del 25%. Ma nemmeno io, però magari vediamo. Ma c'è una figura, secondo lei, della Francia moderna a cui si possa in qualche modo avvicinare, questo singolare personaggio che sì è un enarca, però non viene dalle classi dirigenti tradizionali, poi ha fatto un dottorato in filosofia e con la tesi tra l'altro con un filosofo balibar ipermarxista, poi è stato giovanissimo consigliere di Hollande, e poi se n'è andato nel privato a Rothschild, quando pensava di fare il ministro gli hanno detto no, tu devi farti prima eleggere, Hollande. Allora è tornato nel privato, poi l'hanno richiamato, l'hanno fatto ministro. Cioè un mio amici stamattina mi dicevano dalla Francia, ma in realtà è un candidato centrista, la prima volta dopo Giscard, ma Giscard era un animale politico, questo non lo è. C'è qualche precedente secondo lei per Macron? Allora, Giscard prima di essere eletto era stato per lunghi anni, a parte che era stato prima un politico, ma poi era stato ministro la politica economica di De Gaulle aveva fatto esatto. Valere Giscard d'Estaing, quindi non era esattamente. Inoltre centrista, sì, era centrista, però lui si era collocato Giscard in una dialettica destra e sinistra e si era collocato. Era un pezzo di politica tradizionale, insomma, ecco, non voglio sì, dire. Sì, assolutamente. Lì, diciamo, alcuni parlano di tradizione orleanista. Cioè però dobbiamo rimontare che è un po' lontana, però ricordiamoci che per esempio Georges Pompidou anche lui aveva lavorato, tra l'altro credo per la stessa banca, sì, in cui aveva lavorato prima di ritornare alla politica, chiamato da De Gaulle, quindi comunque con un'esperienza. No, da questo punto di vista è un'assoluta, il percorso è un'assoluta novità. Solo una cosa sulla formazione filosofica, in realtà c'è molta discussione in Francia. Balibar per esempio ha detto di non aver mai conosciuto Macron, o di non ricordarselo, quindi se è stato studente o è stato studente, e poi anche Macron dice di essere stato allievo di Ricoeur, ma alcuni allievi di Ricoeur dicono che in realtà non lo era, cioè esatto. L'aveva incontrato due o tre volte, quindi questo è abbastanza interessante. Certamente è una figura, sicuramente rispetto ad altre figure come Hollande o anche lo stesso Sarkozy, è sicuramente una persona dotata di una cultura umanistica, ecco. Però bisogna anche vedere quanto con questo ci giochi per smorzare l'immagine del freddo tecnocrate. Del banchiere, dell'ex banchiere, diciamo così, per quanto poi... Sì, ma banchiere non è un'offesa, insomma. No, certo, insomma, nella politica attuale rischia di essere un'arma contundente, quando si danno del banchiere, l'elite, il complotto del bank, pim, pim, pim. Ma lei pensa che ce la fa? Macron? È probabile che ce la faccia a vincere, arrivare all'Eliseo, però con quale maggioranza governa, questo è tutto un altro paio di maniche, nel senso che io riesco difficile immaginare che En Marche, che non è un partito, riesca ad avere la maggioranza assoluta dei seggi. No, ma quindi questo lo esclude. Appunto, lui lo dice, ma naturalmente... è come un altro esponente politico che dice che raggiungerà il 40%, insomma. Nelle prossime ma elezioni, io credo, che invece, io credo che invece la lista di sinistra diversa di Mélenchon, quella rischia di avere un bel po' di eletti, il che significa che magari serve una convergenza di UMP e socialisti tradizionali per dare un governo a Macron, cosa che non voglio neanche questo, immaginare su che cavolo di programma. Questo mi sembra quasi scontato, è una specie di grande coalizione, per quello anche sia Fillon che Hamon si sono precipitati a dare il loro endorsement, che non è solamente per difesa della Repubblica, no, ma è per mettere la bandierina in vista del futuro governo, sì, un governo che poi, oppure nell'ipotesi più catastrofica, diciamo così, di un risultato di en marche deludente, si potrebbe addirittura avere un governo di coabitazione nel senso che se i Repubblican hanno dei voti e poi c'è l'incognita dei voti del Front Nazionale, adesso ha due deputati, ma ne avrà sicuramente una di più. Buona carrettata. E il Front Nazionale non è coinvolgibile, ovviamente. Il rischio è che naturalmente si formi un grande rassemblement che non è in grado di fare nulla perché mette insieme pezzi diversi e che fa crescere ancora il Front Nazionale. Non c'è dubbio, e me lasciamo dall'altra parte. Allora, fermiamoci qui intanto ringraziando il professor Gervasoni. Come vedete, le differenze rispetto all'Italia ci sono e come, quindi invece di intestarsi Macron ragionate qualunque sia il vostro punto di vista. Primo, lì c'è un'alternativa moderata ma anti-establishment contro i vecchi partiti, noi in Italia non ce l'abbiamo. Uno. Due, anche lì, anche se ce la fa Macron, comunque il rischio è quello di un governo di grande coalizione tra i tradizionali avversari, cioè socialisti e moderati dell'UMP. Anche questa, a sentire le forze politiche italiane, non esiste come ipotesi di fronte al 5 Stelle. Vedete la differenza? Quindi prima di dire che quel voto sana l'Italia, io direi che sono due situazioni completamente diverse. Intanto grazie a Marco Gervasoni, torniamo dopo il traffico con un'altra ospite. La versione di Oscar. Ecco, agli ascoltatori che mi dicono: ma come non c'è un'alternativa moderata? Ci sono i 5 Stelle. Ma scusate, no, secondo la dizione tradizionale, i 5 Stelle, per la loro posizione su euro, sono anti-establishment, ma non sono un'espressione moderata, diciamo così, come Macron, la cui campagna è stata europeista e prendendo pezzi di proposte di qua e di là, senza neanche troppa chiarezza e coerenza. Però, come si vede, gli è valso per rappresentare questa opzione moderata ma anti-establishment, alternativa all'anti-establishment, anti-europeismo del Front National e di Mélenchon. Qui in Italia abbiamo pezzi di destra, Fratelli d'Italia, la Lega, Salvini, Meloni e i 5 Stelle, che, esagerando perché è sempre sbagliato fare analogie meccaniche, sono la versione francese del Front National di Mélenchon. Ma il punto è che qui manca l'alternativa moderata per chi vuole dare un voto anti-establishment, perché non lo è il PD di Renzi, non lo è Forza Italia e così via. Prima differenza. Allora, secondo ospite abbiamo la professoressa di storia della politica all'Università di Bologna, Sofia Ventura. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, noi con Marco Gervasoni eravamo arrivati, oltre a dire questa prima differenza, in Italia manca l'alternativa anti-establishment moderata rispetto a quella del fronte, cioè Macron. La seconda, e anche se vincesse Macron, oimè, oppure filosofia di realismo, induce a credere che sarebbe magari anche necessario un governo, visto l'inipotizzabilità di un travolgente successo di En Marche alla sua prima prova alle legislative, di un governo in cui dovessero convergere anche l'UMP e i socialisti di fronte ai voti che invece saranno tanti, gli eletti del Fronte Nazionale da una parte e di Mélenchon. Due belle differenze rispetto all'Italia, oppure no, secondo lei? Il ragionamento che abbiamo fatto finora ha degli errori, che dice? No, sulla questione che in Italia non esiste un'alternativa moderata di tipo anti-establishment, è verissimo, ed è Macron sicuramente in Francia la rappresenta, perché comunque Macron ha una retorica antipolitica, anti-establishment, però si colloca appunto dentro al contesto europeo, liberale, e quindi diciamo gioca tra il pro-sistema e l'antisistema. Diciamo. Però sulla parte antisistema in realtà si è incamminato in una via molto perigliosa, potremmo dire, e vengo al secondo punto, al problema della maggioranza. In realtà Macron rischia di andare verso una soluzione molto italiana, cioè una soluzione trasformistica, perché appunto, come si diceva, è abbastanza improbabile, poi tutto può essere, ma è abbastanza improbabile che En Marche riesca ad avere una maggioranza solo assoluta, ma secondo me neanche, diciamo, una maggioranza relativa o comunque consistente. Non so se i partiti in quanto tali lo appoggerebbero. Io non so se i repubblicani di Sarkozy hanno voglia di fare un governo che con Macron, di entrare in una maggioranza con Macron, perché tra l'altro sarebbe anche per loro un po' autolesionistico, no? Perché si andrebbero poi ad ossare eventuali suoi fallimenti e non riuscirebbero a sviluppare una loro identità, mentre sono in una fase in cui hanno un grande bisogno di ricostituire la loro identità. Quindi quello che io immagino, se appunto vince Macron, è che lui nomini un capo di governo, il quale poi, oppure tutti e due insieme, si metteranno, lui e il suo capo di governo, il primo ministro, si metteranno a tessere una maggioranza fatta di spezzoni. Però in questo senso io vedo più una prospettiva di tipo trasformistico, che però non sarà ovviamente una soluzione definitiva, cioè il rischio è che per i 5 anni, per il quinquennato di Macron, ci siano maggioranze instabili, e questo ovviamente condizionerà moltissimo l'azione di governo del presidente e del primo ministro e il potere anche del presidente, che quindi non potrà, per dire, essere il presidente con il suo primo ministro collaboratore, no, dovrà poggiare molto sulle capacità di un capo di governo che tesse continuamente le trame per tenere insieme una maggioranza, quindi sarà un presidente molto indebolito. Quindi in questo senso io credo che appunto l'opzione Macron sia abbastanza destabilizzante per le istituzioni della Quinta Repubblica. Cioè noi siamo di fronte, cioè con questi due candidati che hanno fatto fuori anche per colpe, insomma, loro, i due partiti tradizionali, noi ci troviamo davvero di fronte a una prospettiva di destrutturazione delle istituzioni della Quinta Repubblica, che hanno rette, si sono consolidate sull'alternanza tra i due grandi partiti, socialista e gollista. Quindi, ma anche lei ma anche lei esclude, come i più, io no, a dire la verità, ma sarà ignoranza mia, che con bassa partecipazione eventuale e di fronte a un peso relativo della leadership che è innegabilmente, come capacità tecnica di comunicazione, avvantaggio della Le Pen rispetto al freddo lettore di testi scritti impersonali Macron, ma anche lei esclude, ciò malgrado, praticamente ogni possibilità reale che la Le Pen possa vincere? No, io direi che nessuno può escludere ogni possibilità, cioè quindi no, non ci metterei la mano sul fuoco. Diciamo che mi sembra più probabile, molto più probabile, che vinca Macron, guardando anche i flussi che appunto sono già stati rilevati immediatamente dopo il risultato, per esempio da Opinionway, che ci dicono che comunque mi sembra il 44% dei voti di Fillon andrebbero a Macron e soltanto il 20 e qualcosa alla Le Pen. Ancora i voti di Mélenchon, anche se Mélenchon ha appunto assunto questa posizione così un po' alla Grillo, cioè ascolterò il mio popolo. Lui non si è legato le mani. Lui non si è legato le mani, però la maggioranza, direi il 55%, secondo i dati di Opinionway, dei suoi elettori andrebbe verso Macron, con poi il resto diviso tra astensione e Le Pen. Quindi, insomma, diciamo che se si è ragionevolmente dovrebbe vincere. Senta, Macron, le faccio una domanda però, in politica, però lo faccio perché lei è anche una professoressa non professor Re. C'è un mio amico, c'è un mio amico psicoterapeuta che dice: guarda, tutti pensano che le lezioni si facciano sui programmi. Dice tu, Giannino, citi sempre l'importanza di del Nobel dell'economia Kahneman, che ci ha insegnato che anche le decisioni economiche, neuroeconomics, si prendono con l'amigdala, non con la corteccia cerebrale, cioè con la pancia e non con la testa. E così, quando cadono i sistemi politici ancora di più, gli elettori scelgono con la pancia. Aspetta che c'è un elemento, l'elemento di un non maschio alfa, che quando dice integriamo, e lui per primo è diventato una specie di membro fratello dei figli della prima moglie, e quindi parla a milioni di donne, a milioni di persone che apprezzano questo rispetto ai maschi alfa precedenti. Lei ci crede che questo abbia un ruolo nel personaggio Macron? No, io dunque ho una risposta composita. Ah no, serve una semplice. No, diciamo due cose. Io sono assolutamente d'accordo che le decisioni poi sul come votare, cioè, anche vengono di pancia, prese in maniera istintiva. Ma su quell'aspetto di non maschio, ecco, alfa? Questo è piaciuto molto alle donne francesi, specialmente della mia età, che dicono: ma che bello questo amore, la giovane. Ma non è questo un fattore decisivo, secondo lei, da come lo dice? Io credo che però c'è un altro fattore che appartiene sempre alla dimensione... Che è quale?